523, hola, hola, hola, 523, hola, hola, hola. 523. Molto, molto, molto. E poi non è quando aspetta, allora c'è qualche cosa, un attimino, eh? Ma chi? Com'è questa la radio? Ieri qua che ci sentivo strano, come che ieri tutto abbassato era prima, adesso l'ho aumentato. Questo è un'altra cosa, l'apparecchio, questo è il Cobra, 200, 200, questo deve essere forte veramente la radio. E anche lei ti sento bene, anche io adesso, e adesso ti sento bene anche io. 6-9-10 Radio 5. Questo è quando secondo apparecchio lo sento male, per dire qua Claudio lo sento tutto slabrato, mentre con quell'altro di prima lo sento più perfettamente. Come ricezione questo non è tanto buono come quell'altro, capito? Lo credo bene, cazzo. Qui c'è un signor apparecchio, sto guardando la TV che c'è un film e ho sentito a te, ecco perché sono entrato. No, mi sto guardando il film e fra 5 minuti o 10 minuti sarà finito e riprendo. Ma chi? Ehi, ha quasi finito, capito? Battisio, cambio. Sentiamo, Battisio, cambio.